Pronto? Pronto? Ciao, io sono Macchina. Parlarvi della mia esperienza in Havana BBS? Beh, allora dobbiamo tornare indietro al 1994, quando venni a conoscenza del collettivo per via di un seminario che organizzammo nell'auletta occupata della Facoltà di Lettere a Roma. Ovviamente nel 1994 internet non era ancora nella nostra vita come oggi, anzi per nulla. Eppure i concetti di telematica sovversiva e nomadismo psichico che Havana dibatteva mi entrarono immediatamente nel cervello e nel cuore. Attraverso Havana BBS era possibile entrare in contatto con altre creature simili, per citare Philopath e il suo costretto a sanguinare, e scoprire che quell'anomalia che avverti non è solo tua. Havana BBS era un nodo della rete Cybernet e di Isole nella Rete. Nelle aree di discussione si esploravano e si praticavano le modalità dello stare in rete e le novità che un mondo connesso avrebbe portato. Per noi era importante il diritto all'anonimato e alla privacy, diritti che oggi sono ampiamente negati, cosa che ci dovrebbe far riflettere su come quella che per noi era un'utopia cinetica si stia trasformando sempre più ineluttabilmente in una distopia. Il nostro metodo, in linea con l'attitudine hacker, era quello della pratica, del metterci le mani sopra. I concetti che discutevamo si trasformavano in realtà, come il concetto di nomadismo psichico che, innestandosi nel tessuto urbano, ci portò alla pratica dei rave illegali. Havana ha attraversato moltissime persone ed è stata, e probabilmente ancora, un nodo di scambio di conoscenze ed esperienze. Tutti coloro che ci sono passati portano sulla loro pelle l'imprinting del nomade psichico. Eravamo e siamo dei naviganti. E adesso siamo altrove. Per questo vi parlo da questo telefono. Ciao!